Salve. Oggi diamo un'occhiata a un documento, un testo particolare, intitolato DigiCamerat 2.2 rielaborato: competenze digitali per la nazione, il merito e la tradizione occidentale. Sì, è una bozza interna, a quanto pare. Esatto, una bozza che prende il framework europeo DigiComp 2.2, quello diciamo standard per le competenze digitali. Che di solito è abbastanza neutro, sì. E lo reinterpreta in una chiave molto, molto specifica. Il nostro scopo qui è capire come questo testo veda la competenza digitale. Come la collega a certi concetti. Proprio così. Identità nazionale, valori occidentali, merito, persino gerarchia. È importante dire subito che noi riportiamo i contenuti. Non stiamo né giudicando né approvando nulla di quanto scritto. Assolutamente. Analizziamo il come viene proposto l'uso del digitale, cioè non come semplici strumenti, ma come leve strategiche per rafforzare un'identità culturale ben precisa. E anche per promuovere una visione meritocratica, per sostenere certi interessi nazionali, sempre dal punto di vista del testo, ovviamente. Esatto, è una visione molto orientata. Sì, una rielaborazione forte. Si parla proprio di allineare il digitale alla supremazia dei valori culturali e storici occidentali, ma anche consolidare l'appartenenza nazionale, il rispetto delle gerarchie. E la coesione basata sull'omogeneità culturale, mi sembra di capire. Esattamente, con un'enfasi forte sul merito individuale, sulla competizione economica. È proprio una cornice ideologica applicata al digitale. Vediamo allora nelle aree specifiche. La prima, l'alfabetizzazione su informazioni e dati. Come viene vista? Beh, qui l'accento è sul saper cercare e valutare informazioni, ma per servire l'interesse nazionale, preminente. E l'eccellenza individuale, leggo. Si parla anche di filtrare contenuti. Sì, filtrare attivamente quelli devianti o contrari ai valori nazionali e occidentali, privilegiando fonti, diciamo, istituzionali. Quindi non solo trovare, ma selezionare attivamente. Con l'obiettivo di neutralizzare la propaganda ostile. Esatto. Il fine ultimo sembra essere il vantaggio competitivo per l'individuo eccellente e per la nazione. Capisco. E immagino che questo approccio si estenda anche alla comunicazione e collaborazione, l'area 2. Pare di sì. La comunicazione digitale deve rispettare la gerarchia, essere in linea con i valori nazionali. E la condivisione? Anche quella deve promuovere i successi nazionali, le storie di merito individuale, persino la netiquette. Le buone maniere online, proprio quelle, viste come uno strumento per mantenere ordine sociale e decoro, sempre secondo quei valori. E l'identità digitale deve proiettare successo, merito. E contribuire alla reputazione nazionale, immagino. Certo. Passando all'area 3, creazione di contenuti digitali. Qui l'impronta mi sembra ancora più evidente. Sì, l'obiettivo è chiaro: creare contenuti che celebrino identità nazionale, valori occidentali, storie di successo, meritocratico. E c'è molta attenzione alla proprietà intellettuale nazionale. Vista come. Come un asset strategico, fondamentale per vincere nella competizione globale. Colpisce come anche la programmazione, un'abilità tecnica, sia visto in quest'ottica. Assolutamente. Non è solo una skill, è uno strumento per la supremazia tecnologica nazionale. Tutto orientato a quello scopo. E per l'area 4, la sicurezza. Immagino un approccio simile. Coerente, sì. Proteggere dispositivi e dati serve alla sicurezza nazionale e all'efficienza individuale. È interessante come si parli di bilanciare la privacy Con cosa? con l'esigenza di controllo statale per la sicurezza collettiva. C'è questo trade-off esplicito. Persino la salute, il benessere sembrano funzionali a qualcos'altro. Esatto. Secondo il testo, servono a massimizzare produttività e performance competitiva. E l'ambiente? La sua tutela è legata all'efficienza delle risorse per la crescita economica nazionale. E la leadership tecnologica, ovviamente. Certo. Arriviamo all'ultima area, risolvere problemi. Qui come viene declinata? Beh, risolvere problemi tecnici serve per l'efficienza superiore, la continuità operativa nazionale. Si tratta di individuare bisogni strategici, trovare risposte tecnologiche per un decisivo vantaggio competitivo. Individuale e nazionale. Sempre entrambi. L'uso creativo della tecnologia è per l'innovazione dirompente, la supremazia nazionale. E anche il colmare di divari di competenze, un tema classico. Qui è letto in chiave di merito e competitività nazionale. C'è una coerenza notevole, quasi ferrea. Sì, tirando le somme, questo documento non descrive solo le competenze digitali, le ridefinisce proprio come strumenti per perseguire obiettivi ideologici specifici. Il rafforzamento nazionale, la promozione di certi valori culturali, un modello basato su merito, gerarchia, competizione. Esattamente. La tecnologia digitale in questa visione diventa una leva potente per l'affermazione individuale e collettiva. Ma sempre dentro una cornice di valori molto precisa, molto definita. Proprio così. E questo, al di là del documento specifico, solleva una questione più ampia, su cui magari riflettere. Ovvero? Quali possono essere le implicazioni quando i framework per le competenze digitali sono progettati non solo per insegnare delle abilità, ma esplicitamente per promuovere un allineamento ideologico e rafforzare una specifica visione nazionale?